benvenuti a Cialtroni nello spazio, puntata numero 7 con Marco che entra nella stanza di corsa per inserire le cuffie all'interno dell'apposito contenitore. Quindi un saluto anche a Marco e Alessandro in studio per questo pomeriggio per la settima puntata di Cialtroni nello spazio, trasmissione di software libero e di informazione libera e di musica libera e insomma informatica, copyright, di un sacco di libertà, soprattutto libertà digitali ma anche tanto altro. Puntata numero 7 della edizione che stiamo conducendo ormai da più di un anno, no, meno di un anno, quasi un anno, quasi il compleanno della nuova edizione di Cialtroni nello spazio. Vabbè, dopo un minuto di presentazione siamo giunti al momento della scaletta della puntata odierna. Vai Alessandro. Oggi facciamo un po' il resoconto di come è andato il Linux Day, quella manifestazione di cui vi abbiamo parlato la settimana scorsa, che è avvenuta sabato. Dopodiché daremo un paio di news e poi presentiamo un software piuttosto per carino, l'editing in formato vettoriale sotto Linux e sotto anche Windows e macOS X. Utilissimo per chi deve fare dei volantini, e quindi aguzzate le orecchie voi che ne fate un sacco. E questi sono i Chemical Brothers Remixed, non sembravano ma in realtà lo sono. Adesso ricordiamo che questo album è comunque ancora scaricabile da www.chemicalbrothersremixed.com. E niente, allora Tra poco ci collegheremo con Andrea Gelmini per poter fare un bilancio del Linux Day bresciano. Intanto diamo qualche dato rispetto a quello che è stato il Linux Day nazionale, la quinta edizione che si è svolta con 97 eventi in 94 città. A me sembrano un po' poche, in realtà secondo me erano di più e qualcuno se ne è dimenticato qualcuno, da Aosta fino ad Agrigento, dalla A alla A, ma uno è sulle A Alpi e l'altro è nel sud della Sicilia. Sulle piramidi, no. In particolare non c'è stata molta copertura mediatica all'interno della stampa italiana. C'era stato un po' di interesse nei giorni precedenti con un articolo a tutta pagina anche di Repubblica, però in realtà poi nei giorni successivi non abbiamo trovato molti dati sulla stampa italiana. C'è stato un articolo interessante su NewsForge, un online newspaper dedicato tutto a Linux e all'open source, che ne ha un po' parlato ma si è concentrato principalmente su quello che è stato il Linux Day romano, e c'è appunto questo articolo che racconta un po' dell'interesse che c'era stato a Roma dopo le edizioni precedenti che si erano tenute appunto con il LUG di Roma e il LUG della Tor Vergata. Ma invece di parlare di quello di Roma parliamo di quello più vicino a noi, al telefono con noi Andrea Gelmini, che si è occupato principalmente del Linux Day nell'Ovest bresciano. Ciao Andrea, grazie di essere con noi. Buonasera a tutti. Oggi non sei venuto a trovarci in studio, però ti abbiamo beccato subito al telefono, hai visto? La neve ci ha bloccato, ma con le ciaspole arriveremo fino alla città. La ciaspola è la tecnologia. Vabbè, mentre stiamo parlando, quando andrà in onda questa trasmissione ci sarà un'altra edizione del Linux Day a Ingegneria. Il sabato scorso c'è stato quello del Garda e quello dell'Ovest Bresciano. Tu sei stato tra quelli dell'Ovest Bresciano, com'è andata? Bene. L'evento ha fatto piacere a noi veterani del LUG per più ragioni. In particolare quest'anno, come dicevamo anche l'altra volta, ci siamo scissi su più realtà, quindi io ho fatto parte di coloro qua che si sono recati a Rovato, alle scuole medie di Rovato, che ci hanno gentilmente ospitato. È stato piacevole per più ragioni, al di là della manifestazione in sé, anche per il fatto che è stata un po' un grande pretesto per dare là il via alle attività più corpose del LUGOP, appunto Linux User Group Ovest Bresciano, che si è occupato di tutta l'organizzazione, dove sostanzialmente noi abbiamo fatto poco nulla tranne appropriarci di alcuni meriti che in realtà non sono nostri. Per cui da questo punto di vista è andata bene, sia per la manifestazione in sé, che ha visto parecchia partecipazione malgrado la neve, le intemperie, la pioggia e il freddo, e ha permesso di dare nuovo spunto, nuova vita anche non solo al LUGOP appena nato, ma anche al LUG di Brescia. Ecco, c'è stato più interesse secondo te nei confronti dei seminari, diciamo così, per neofiti, cioè quelli che non sanno assolutamente niente di open source, o c'è stato più interesse verso i seminari più tecnici? Ma allora, contro ogni previsione, nel senso che logisticamente si era preparata le aule più ampie, eccetera, per accogliere appunto gli incontri per i novizi, in realtà l'interesse è stato più su argomenti per un'utenza più scafata, appunto, e interessata a problematiche più di nicchia e così via. Del resto bisogna anche tenere presente che rispetto alle prime edizioni del Linux Day che noi abbiamo fatto, che ricorreva l'anno 99, rispetto a quelle prime iniziative che cadevano in un contesto un po' particolare, ovvero quando di free software / Linux non ne parlava nessuno, quando in edicola non c'era nessuna pubblicazione a riguardo, quando gli unici a dedicare qualche stralcio all'argomento era l'allora MC Microcomputer, ma che oramai già lì non esisteva più e così via, nel senso che negli anni precedenti aveva pubblicato qualche notizia, ovviamente c'erano poche informazioni per il grande pubblico. Ora, data la vastità del numero di pubblicazioni, del materiale su internet, del fatto che banalmente, anche solo perché pubblicizzato / spinto da IBM, tutto il fenomeno Linux, in qualche modo comunque a tutti i livelli il nome gira nella testa, possiamo dire in maniera un po' banale, però insomma possiamo dire che oramai tutti hanno sentito parlare di Linux, tutti hanno affrontato gli aspetti principali legati alla licenza e quant'altro. Restano da approfondire un po' di argomenti. Difatti, ed è questo il nostro impegno che vorremmo prendere come l'UBS, l'idea sarebbe alla fine quella di fare un passo ancora in avanti, riuscire ad arrivare ad organizzare almeno un incontro al mese monotematico, magari anche non troppo lungo, una cosa che si risolve in un'ora e mezza, da proporre via via durante l'anno, almeno uno al mese. Dovremmo riuscire, viste le forze nuove che sono entrate in campo con il LUGOB e con tutte le novità che stanno ruotando intorno all'UBS. E infatti, appunto, di nuove realtà che stanno ruotando intorno all'UBS c'è anche il Linux Day di ingegneria, che dovrebbe nasce, non si sa, non è ancora ben chiaro, però appunto oggi, mercoledì, dalle 2:30 in avanti, ci sarà il Linux Day a ingegneria. Per cui anche questa nuova realtà che dovrebbe nascere, dovrebbe forse, speriamo, partecipi attivamente nella vita dei lugbresciani. Infatti, sì. Dimmi. Perdonami, non volevo interromperti. Beh, ma in realtà non l'hai interrotto, non aveva più niente da dire. No, in realtà vorrei anche ricordare la parte del Lug del Garda, che per quanto ristretta nel numero di partecipanti eccetera, però è comunque una realtà importante, perché tocca una zona se vogliamo ancora più distante rispetto a dove siamo noi da Brescia, e che anche lì quest'anno si è svolto Linux Day. Non ne avrei parlato dopo, diciamo, di questo, perché ero io presente, in verità, quindi... esatto, io non so nulla. Marco fa parte di coloro i quali invece è stato appunto su quella zona del lago per la partecipazione, quindi vi saprà fuori dire lui. Il seminario più seguito? Con stupore. Il tuo? Positivo. No, io quest'anno non ho tenuto, nel senso che quest'anno, dell'esperienza di oramai Lug ha alle spalle 10 Linux Day, forte di questa esperienza siamo riusciti a fare esattamente quello che più ci piace, cioè lo scaricabarile, per cui siamo riusciti a sbolognare tutta la parte di programmazione eccetera, logistica e gestione dei luoghi, di pubblicità, realizzazione dei manifesti eccetera, di recupero delle vivande, cibarie e strumenti di conforto. Non solo, siamo riusciti anche a sbolognare i seminari, e sostanzialmente gli oratori che sono stati mandati sono stati un po' presi tra capo e collo all'ultimo momento, gli è stato detto tu lo farai, con velate minacce eccetera. No, per cui in realtà diciamo che ci ha stupito che due seminari abbastanza tosti, come potevano essere quelli che riguardavano l'utilizzo in cluster di macchine per elevata ridondanza eccetera, sono stati quelli più seguiti e dove c'è stata la maggior partecipazione. Quindi, ecco, ripeto, contro ogni aspettativa, perché in realtà poi ci siamo ritrovati negli spazi più piccoli a essere in più, perché ci si sarebbe aspettato una situazione inversa. Non ti chiediamo di sintetizzare cos'è stato questo seminario per radio, perché penso che tanto sarebbe assolutamente inutile. E poi non avrebbe molto da dire. Poi probabilmente, visto che oggigiorno installare Linux è diventato probabilmente una cosa decisamente facile, viste le ultime nuove distribuzioni che praticamente rilevano tutto l'hardware e permettono di installare Linux in brevissimo tempo anche un neofita, effettivamente forse la parte di tutorial su come installare Linux oggigiorno non ha più molto senso. Però senti Andrea, ma allora quindi non è capitato che arrivasse lì qualcuno con un computer con su un vecchio Windows e ti dicesse mi monti Linux? No, in verità questo è stato un lato divertente, perché è forse anche più piacevole, nel senso che a un certo punto è giunta una persona con un portatile che si è attirata l'odio di tutti, perché ha fatto slittare la conclusione dei lavori di una buona oretta e mezza, perché voleva a tutti i costi vedere installato Linux sul suo portatile. Ora il lato positivo è appunto che una persona in più è tornata a casa soddisfatta, e i ragazzi del Lugub lo hanno seguito in maniera più che eccellente, per cui con gran buona volontà e piacere gli hanno realizzato il tutto. La parte divertente viene dal fatto che tutti fingevano di non conoscere questa persona, quando in realtà l'avevamo portata noi perché è amico di uno di noi. Ma c'era il casco gioco all'italiana, no, io quello non lo conosco. Vabbè, dai, ma non vale. E per cui dunque è stato abbastanza divertente. Mettiamo così, la disponibilità dei linuxisti è sempre abbastanza... Cioè, sono sempre abbastanza disponibili, diciamo. Sì, sono abbastanza disponibili, ma se chiamano gli amici per farglielo installare agli altri, mi sembra che sia un po'... Beh, si tratta di... Il famoso gioco dello scaricabarile. Si tratta di mettere in campo le nuove leve, fargli acquisire quell'esperienza solo con la pratica... Era essere... mettere alla prova, insomma, una sorta di esame. Se volete fare un lug, dovete sapere installare anche i Win Modem, va bene. No, in verità, se posso, dimmi. Chiudo con questo breve aneddoto. Già accade in un install test che fece l'UGBS, dove arrivò il classico tizio con la domandona incredibile, a cui io non sapevo cosa dire, e a quel punto ho giocato la solita carta della truffa, cioè gli dico: ah, guarda, sì, potrebbero esserci innumerevoli ragioni a questo comportamento buffo della macchina. Bisognerebbe vedere i file di configurazioni precisi, perché su quelli saprei dire così a voce, ora non avrei proprio idea. E questo, che peraltro era straniero, nel senso che quindi non si spiegava troppo bene con l'italiano, tira fuori un quintale di carta che era la stampata di tutti i suoi file di configurazione. Deve essere stato divertente. Sì, ovviamente anche lì si è trattato di dirgli: ah, quella persona, e ho indicato proprio Marco, lui te lo sa sicuramente dire, era sbogliato lui, quindi va bene. Andrea, grazie per questo bilancio. Buon lavoro a voi. A presto, ciao. Ciao, ciao Andrea. E quindi ringraziamo Andrea Gelmini per averci, insomma, raccontato un po' della giornata nel Lug OB. Marco, mi ferma le mani e adesso tu non sai, ma toccherà a te parlare di quello che è andato sul Garda. Esatto, perché infatti io appunto per questa diaspora che c'è stata del Lugbs, che non ha fatto nulla, è moltiplicazione. Esatto, della... sì, vabbè, moltiplicazione dei relatori, appunto. Io ho deciso invece di andare dall'altra parte del mondo, ovvero sia verso il lago di Garda, a partecipare al Linux Day organizzato dal Garda Lug in quel di Puegnago. Questo Garda Lug è stato organizzato nella sala consigliare del comune e ha visto la partecipazione di un discreto numero di persone che sono arrivate dopo una brevissima introduzione a Linux. Lì abbiamo pensato invece di fare un Linux Day molto più alla buona, ovvero sia con molta più gente in giro, e cioè nessun talk principale, ma delle postazioni dove la gente poteva andare a parlare dei vari argomenti, ovvero sia, non so, di guardare dei desktop Linux installati, oppure vedere un open office funzionante o cose del genere. E a quel punto, vabbè, è stato molto più carino e molto più divertente della classica persona che parla e 100 persone che ascoltano, molto più da condivisione, mettiamola così. Mettiamola così, dai, va bene. È degno dei più grandi guru del mito, un open office funzionante. No, vabbè, era per gente che magari non aveva visto mai Linux funzionare a quel punto. Sì, diciamo che era più dedicato a persone che si avvicinavano al mondo del free software. Ma neanche, perché c'erano delle postazioni un attimo più dedicate, come quel che gestivo io relativa alla grafica sotto Linux, che dove dimostravo un po' di software che permettessero appunto di utilizzare software che girano sotto Linux, che permettono di utilizzare al meglio le potenzialità del computer per creare delle immagini, del fotoritocco, oppure lavorando su formati vettoriali, come vedremo probabilmente tra poco. Esatto. Per il momento ci ascoltiamo un brano musicale dei Madness Media Lab e subito poi dopo qualche news. Madness Media Lab. Torniamo insomma in trasmissione dopo questo brano dei Madness Media Lab, SOB. S-O-B. E andiamo adesso a dare qualche news, in particolare una a cui teniamo molto è quella di hcn.org, che sembra essere di fronte a insomma un'altra delle crisi. Ne avevamo parlato tra l'altro anche in passato, un server HCN, un server di movimento che offre decine, forse centinaia di servizi a diversi soggetti, ma ancora una volta sembra essere un po' in crisi, in particolare sulle prime pagine di ECN in questi giorni c'è una comunicazione urgente che dice: il portale che cercavate non esiste più, ha chiuso per mancanza di fondi, la libertà di espressione e di comunicazione è in serio pericolo. Ovviamente è solo una cosa, diciamo così, provocatoria per far parlare ancora di quello che succede, che però non è in realtà uno scenario impossibile nel giro di pochi mesi. C'è proprio bisogno di soldi per isole nella rete in questo momento, ci sono assolutamente necessarie fare anche dei lavori sul server e mettere in campo delle nuove energie, ma anche dei soldi. Quindi sicuramente torneremo a parlarne anche nelle prossime settimane. Comunque vi lascio fin da subito qualche riferimento per contribuire al progetto di ECN. Conto corrente postale 37140209, intestato all'associazione Isole nella rete, inr@ecn.org, via Angelo della Pergola 5 a Milano. Oppure insomma, anche sul sito di www.ecn.org ci sono tutti i riferimenti per contribuire anche in altri modi. Sicuramente nelle prossime settimane avremo tempo di parlare, di modo di parlare di tutti i progetti che fanno capo a ECN. Basta ricordare che negli ultimi anni sono stati gli animatori di ECN proprio a inventare l'hack meeting, a costruire progetti come Cyber Rights. Decine e decine di centri sociali sono ospitati sul server di ECN. Anche il magazzino lo era fino a poco tempo fa. No, e non ce ne siamo sicuramente andati proprio per nessun problema politico, diciamo. No, solo per una questione organizzativa. La stessa mail della radio è urtobs@ecn.org, ad esempio. E diciamo che l'auto-organizzazione italiana passa o è passata tutta per questo server che ha appunto messo a disposizione nel corso degli anni spazi web, caselle di poste sicure. Ricordiamo per esempio uno dei pochi anonimizzatori italiani passa proprio da ECN, se volete mandare delle email assolutamente o quasi assolutamente anonime potete farlo attraverso quel sito. Quindi www.ecn.org, ci torneremo sicuramente nelle prossime settimane. E poi qualche news invece più breve. Abbiamo parlato nelle settimane scorse molto del Open Document e del caso del Massachusetts. Alessandro, ci sono delle novità? Sono le novità, perché il governatore del Massachusetts ha reagito. Come si dice? Massachusetts. Prova a ripeterlo un po'. Massachusetts. Ha reagito a una serie di dichiarazioni della Microsoft che si prepara a rilasciare appunto con il nuovo Office, l'Office 12, la suite di Microsoft, un nuovo standard basato su OpenXML, che è uno standard che si è inventato la Microsoft, che però sarà aperto, quindi le specifiche tecniche saranno disponibili per tutti. Ricordiamo che il governatore aveva appunto dichiarato che nello stato del Massachusetts non sarebbero stati utilizzati formati chiusi e proprietari, quindi tagliando fuori sostanzialmente la Microsoft dalla concorrenza per l'uso dell'Office negli ambienti governativi. La Microsoft è uscita appunto con questa nuova idea dell'OpenXML. Diciamo che vabbè, è un buon risultato, nel senso che perlomeno si basa su un formato aperto. Direi che è piuttosto discutibile il fatto che Microsoft non abbia deciso di aderire al formato Open Document, che era già una piattaforma condivisa da praticamente tutti gli altri tranne lei. Però vabbè, d'altronde deve sempre portare avanti le proprie iniziative in maniera autonoma, per cui vedremo. Comunque non è già un passo avanti. Un obbligo di legge, diciamo che è una scelta di Microsoft quella di non aderire al protocollo di Open Document, che aveva appunto riunito diversi big dell'informatica, e è sicuramente un progetto molto interessante il fatto che ci siano dei colossi proprio dietro questo formato, che viene ormai supportato da molti programmi. Il più famoso è quello di OpenOffice. e sicuramente proprio per evitare un effetto boomerang che l'avrebbe spodestata, perché la decisione del Massachusetts avrebbe potuto essere presa da numerose altre pubbliche amministrazioni, la risposta di Microsoft è più che altro una risposta alle pressioni enormi che ci sono state negli ultimi anni da parte del mondo del free software e dell'open source. Ricordiamo però che il problema fondamentale di Office è anche quello di cambiare i propri formati a ogni release, per cui questa spesso mossa, incompatibili in esatto, spesso incompatibili, quindi questa mossa di Microsoft alla fine non andrà a cambiare di molto secondo me le cose, perché per il prossimo Office 13 utilizzeranno un altro formato ancora, per cui alla fine il tentativo loro di attirarsi clientela obbligando tutti a installare l'ultima release di Office, diciamo che il vantaggio enorme è che non sarà poi difficilissimo costruire dei formati compatibili, cioè nel senso si potrà sicuramente nel giro di breve tempo attraverso altri programmi salvare ed esportare in maniera perfetta anche in quello che è Word, perché ci sono appunto delle... Io toglierei sicuramente il perfetto, perché... Vabbè, vedremo, perché il formato purtroppo non è l'unica cosa che serve ad un programma di videoscrittura per la visualizzazione corretta delle informazioni salvate nel file. Però vabbè, questo sicuramente è vero, che avere il formato aperto risulterà più efficace e eviterà tutto il tempo e il lavoro necessario per quello che si chiama il reverse engineering. Vedremo se lo useranno. Staremo a vedere. Vabbè. Passiamo adesso a vedere un programma molto utile che è disponibile sia su Windows che su Linux, un programma abbastanza utile per poter fare varie cose, un programma di grafica vettoriale che serve per costruire sostanzialmente dei documenti, dei disegni vettoriali. Allora, cosa sono i disegni vettoriali, Alessandro? Esatto, perfetto, mi incarico io di tradurre questa cosa per diciamo i comuni mortali. Allora, l'anno scorso avevamo fatto la distinzione appunto tra grafica vettoriale e grafica di tipo bitmap. La grafica vettoriale, vabbè, adesso non vogliamo riprendere tutto il discorso, comunque Inkscape si propone come alternativa. Non avevamo ancora detto che si chiamava Inkscape, hai svelato l'arcano mistero. Allora, il software che andiamo a presentare si chiama Inkscape e si propone come alternativa a Adobe Illustrator, ColorDraw, Freehand, che sono tutti i programmi proprietari del, tra l'altro, di grossissime case software, l'Adobe, la Corel e così via. Quindi è un sostituto di quel tipo di programmi di grafica che si prestano alla realizzazione appunto di volantini, Deplian, tutte quelle cose che non riguardano il fotoritocco, quindi il ritocco delle immagini fotografiche, ma la produzione vera e propria. Infatti il formato che utilizza e con cui lavora è appunto questo formato vettoriale, in cui le immagini e le informazioni non vengono salvate per punti come sono ad esempio nei formati immagine JPEG o PNG, dove sono una sequenza di punti attaccati l'uno all'altro che ci danno colorando i vari pixel sullo schermo ci fanno vedere le immagini. In questo caso i disegni sono definiti sotto forme di primitive tipo curve, rettangoli, quadrati, per cui formule matematiche, per cui anche quando noi andiamo a ingrandire incredibilmente un dettaglio, questo dettaglio rimarrà sempre un angolo perfetto, una curva perfetta, senza mai andare a dare l'impressione di diventare tutto formato da pixel giganteschi, da quadratoni giganteschi, come succede nello zoomare le immagini tradizionali. Diciamo che questo risulta molto utile, come diceva giustamente Alessandro, proprio per fare dei volantini o delle cose di questo tipo. Perché? Perché quando ci si trova a impaginare, a volte ci si trova a dover decidere delle dimensioni. Per esempio, un volantino che deve essere scritto con una fotografia, può essere che nelle varie fasi di revisione del volantino bisogna cambiare molto spesso le dimensioni di questa fotografia. Ecco, con Inkscape ogni singolo elemento della pagina viene facilmente ridimensionabile e modificabile, quindi è molto facile diciamo così cambiare le dimensioni, cambiare il carattere, cambiare queste cose. Una cosa che in realtà si può fare anche in modo molto meccanico meccanico. No, non ne volevo. Macchinoso. Ecco cosa volevo dire. In modo molto macchinoso, anche con dei software di videoscrittura, come potrebbe essere Word. Sì, che hanno delle, Office, delle primitive di base per disegnare dei. Però, non essendo questo il loro scopo, ovviamente non riescono a farlo così bene come Inkscape. Inkscape, infatti, l'ho utilizzato un sacco per preparare tutti i disegni relativi alla mia tesi di laurea di recente. Sì, è vero, perché Marco si è laureato. Vabbè, dai, non era per tirarmi, però intanto è stato molto comodo per appunto creare tutti questi piccoli disegnini di vari computer interconnessi fra loro e poi riutilizzarli anche a una risoluzione completamente diversa per fare ad esempio la presentazione. Inkscape si è rivelato sin da subito molto veloce nel permettere di lavorare su questi formati vettoriali e di creare i miei nuovi disegnini del computerino o del router o della connessione di rete o della nuvoletta che rappresenta internet in modo pratico, in modo immediato e efficace. Allora, Inkscape appunto propone come soluzione alcune. Allora, si tratta di un programma di grafica vettoriale, quindi quelle cose per cui è possibile modificare delle curve in base a dei punti e così via. Comunque gli utilizzatori di programmi come Illustrator o Freehand ne saranno abbastanza a conoscenza. In particolare è interessante perché propone delle soluzioni piuttosto intuitive. Proprio per la gestione basilare delle curve, delle forme e persino una cosa molto interessante è la gestione collegata dei duplicati delle stesse forme, per cui se avete copie di triangoli, quadrati, rettangoli e ne modificate uno, è possibile che tutti gli altri si modifichino contemporaneamente. Insomma, questa è una delle tante funzioni carine, comunque molto intelligenti, dell'interfaccia di Inkscape, che è decisamente tutto da provare. Un'altra cosa molto carina di Inkscape è che viene di solito distribuito insieme a una collezione di oggetti in grafica vettoriale che vengono distribuiti anche sul sito www.openclipart.org, che è linkato tra l'altro dal sito di Inkscape stesso, che si scrive Inkscape con la K, Inkscape come Inkscape, N come Inkscape, K come Inkscape. No, il cui indirizzo è www.inkscape.org, come ink come inchiostro in inglese, e scape come? Dai e scape in inglese come? Come vabbè, non lo so. Vabbè, non so niente. Se ha un significato vero e proprio escape. Non sai mai niente, Alessandro. Allora, interessante in particolar modo, allora arriviamo sulla compatibilità. Allora, Inkscape è in grado di aprire ed esportare in formato AI, che è formato di Illustrator, che è uno dei programmi più utilizzati per questo genere di grafica. E, anche se il formato principale utilizzato da Inkscape è l'SVG, che è un formato di grafica vettoriale supportato via web e consigliato dal V3C. Consigliato anche da noi, nel senso che è un formato aperto estremamente efficiente per la grafica vettoriale e anche discretamente supportato via web, anche se non in maniera completa, diciamo completa dai software open come Firefox, meno dai software come Internet Explorer. È in grado di generare anche PDF, PostScript, tutte quelle cose che possono essere utilizzate per la stampa di tipo professionale o LaTeX. E oltre ai formati di tipo bitmap come il JPEG, il PNG e il GIF, per cui diciamo che è un software abbastanza riuscito, anzi direi decisamente riuscito, che si propone come una validissima alternativa a prodotti blasonati di grosse case software. E con questo penso che possa essere praticamente tutto. Fai partire la sigla. Barry Gray, Space 99. Questo si chiude la puntata di Cialtroni dello Spazio odierna. Numero 7. Questo è quello che dici tu, in realtà noi ne abbiamo fatto una nascosta che non abbiamo mai mandato in onda. In ogni caso, spazio.circola.net per tutte le puntate scorse e anche quelle della vecchia stagione. Quando e Alessandro si ricorda di metterle. Quando ha tempo di metterle. E l'appuntamento è ancora per mercoledì prossimo, sempre attorno alle 12.30, con Cialtroni nello spazio, trasmissione di informazioni digitali in senso lato. Sintetizziamola, che ci sono ancora pochi secondi di sigla, quindi un saluto da Francesco. E un saluto da Marco. Ciao.